ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Cosa che Martin fece il mattino dopo fu di disobbedire sia al consiglio sia all'ordine di Brisingen, ovvero impacchettò e spedì la vergogna del sole a The Acropolis. Martin credeva che se il suo saggio fosse stato pubblicato su una rivista, e lui era convinto di riuscirvi, sarebbe poi stato più facile venderlo ad una casa editrice. Impacchettò e spedì anche Efemera ad una rivista, perché aveva deciso che quella grande poesia doveva essere stampata, nonostante i pregiudizi di Brissenden contro le riviste. Martin, però, non intendeva pubblicarla senza il permesso dell'altro. Il suo piano consisteva nell'ottenere un contratto da una delle riviste di prima categoria e poi, così armato, battagliare con Brissenden per ottenerne il consenso. Quella stessa mattina, Martin iniziò a scrivere un racconto del quale aveva già steso la trama alcune settimane prima e che da allora gli aveva occupato la mente con l'insistente richiesta di essere creato. All'apparenza avrebbe dovuto essere uno splendido racconto di mare, una storia d'avventura e passione del XX secolo con protagonisti reali in un mondo e in situazioni reali. Ma al di sotto del fluttuare del racconto doveva esserci qualcos'altro, qualcosa che il lettore superficiale non avrebbe mai intuito, senza che ciò sminuisse in alcun modo l'interesse e il divertimento che quel lettore ne avrebbe tratto. Era questo, non la semplice storia che spingeva Martin a scrivere, era sempre quel grande, universale motivo a suggerirgli le trame. Una volta messo a fuoco quel motivo, Martin andava alla ricerca dei personaggi e delle località specifici per tempo e luogo con i quali e nei quali esprimere la cosa universale. Tempo scaduto era il titolo che aveva deciso di dare al racconto. Sarebbe stato lungo all'incirca 60.000 parole. Uno scherzo per Martin, grazie allo splendore e al vigore della sua produttività. Il primo giorno si mise al lavoro con la consapevole gioia della propria maestria. Non aveva più paura che gli attrezzi affilati e taglienti potessero sfuggirgli di mano e rovinare il suo lavoro. I lunghi, intensi mesi di studio e applicazione gli avevano portato la loro ricompensa. Adesso Martin poteva dedicarsi con mano sicura a fasi più ampie del racconto a cui stava dando forma. Ora dopo ora, intento al suo lavoro, Martin sentiva che poteva afferrare la vita e le cose della vita con una presa cosmica e salda come mai prima. Tempo scaduto avrebbe raccontato una storia vera attraverso i suoi personaggi e i suoi eventi, a loro volta specifici e veri, ma avrebbe anche narrato, Martin ne era certo, cose grandi e vitali, vere in ogni epoca, in ogni mare, in ogni vita. E questo grazie ad Herbert Spencer, pensò Martin, appoggiandosi allo schienale della sedia e allontanandosi dal tavolo per un attimo. Sì, grazie ad Herbert Spencer e alla chiave principale della vita, all'evoluzione che il filosofo gli aveva messo in mano. Martin era consapevole di star scrivendo qualcosa di grande. Funzionerà, funzionerà, era il ritornello che continuava a risuonargli nelle orecchie. Era sicuro che avrebbe funzionato. Stava finalmente creando qualcosa che tutti i giornali avrebbero voluto. L'intera storia si compose davanti ai suoi occhi in lampi luminosi e allora Martin interruppe il lavoro per appuntarne un paragrafo su un blocco. Quello sarebbe stato l'ultimo paragrafo di tempo scaduto. La sua creatura gli si era già impressa nel cervello in ogni dettaglio, al punto che avrebbe potuto scriverne il finale anche con settimane di anticipo. Martin paragonò il racconto, ancora da scrivere, con le storie degli scrittori d'avventure marinaresche e si sentì infinitamente superiore. «C'è un solo uomo che potrebbe arrivare a queste altezze», mormorò, «ed è Conrad. Ma anche lui dovrebbe alzarsi e stringermi la mano e dire: ben fatto, Martin, ragazzo mio». Ricordandosi solo all'ultimo momento che doveva cenare a casa dei Morse. Grazie a Brissenden, il suo completo nero era stato riscattato e lui poteva di nuovo presentarsi in società. Arrivò in centro con un anticipo sufficiente per correre in biblioteca a cercare dei libri di Saleby. Scelse Il ciclo della vita e sul tram si mise a leggere il saggio su Spencer menzionato da Norton. E più leggeva, più si arrabbiava. La faccia gli si arrossò, la mascella gli si indurì, mentre, senza che Martin se ne rendesse conto, le mani si chiudevano a pugno, si riaprivano per poi richiudersi come se stesse stringendo ancora qualcosa e poi ancora qualcosa di odioso, dal quale volesse spremere via la vita. Quando scese dal tram, Martin camminò lungo il marciapiede ad ampi passi, come fa un uomo in preda all'ira, e infatti suonò il campanello dei Morse con una violenza tale da diventare immediatamente consapevole del suo stato d'animo. Pochi istanti dopo faceva il suo ingresso di buon umore, sorridendo, divertito a se stesso. Ma non appena si ritrovò all'interno, una tremenda depressione scese su di lui. Precipitava dalle vette dove le ali dell'ispirazione l'avevano innalzato per tutto il giorno. «Borghesi, covo di bottegai!» gli epiteti di Brissenden si ripetevano nella sua mente. E allora, Martin si chiese rabbioso, doveva sposare Ruth, non la sua famiglia. A Martin sembrava di non aver mai visto Ruth più bella, più spirituale ed eterea e allo stesso tempo più in salute. Le sue guance erano colorite e i suoi occhi lo stregavano ogni volta di nuovo, gli occhi nei quali per la prima volta aveva visto l'immortalità. Negli ultimi tempi Martin si era dimenticato dell'immortalità. Le sue letture scientifiche lo avevano allontanato da quel tema, ma qui, negli occhi di Ruth, leggeva un argomento privo di parole che trascendeva tutti gli argomenti espressi a parole, e lo leggeva proprio in quegli occhi davanti ai quali tutte le discussioni svanivano, perché in essi vedeva l'amore. E l'amore, quello che era nei propri occhi, non accettava risposte. Quella era la sua dottrina appassionata. La prima mezz'ora che Martin passò con Ruth, prima che andassero a cena, lo lasciò felice e soddisfatto della vita. E ciò nonostante, una volta a tavola, la stanchezza, l'inevitabile reazione a una giornata di duro lavoro, si impossessò di lui. E Martin era consapevole di avere gli occhi stanchi e i nervi tesi. Ricordò che quel tavolo, che ora disprezzava e dove spesso si annoiava, era proprio quello dove aveva mangiato per la prima volta tra creature civili in un'atmosfera che allora gli era apparsa di alta cultura e raffinatezza. E per un attimo scorse la patetica figura che lui era stato così tanto tempo prima. Un selvaggio imbarazzato che sprizzava sudore da ogni poro, preoccupato fino all'agonia, sconvolto dagli infiniti e minuti strumenti necessari per mangiare, torturato da quell'orco di cameriere, desideroso di poter un giorno vivere a quelle paralizzanti altezze sociali e, infine, deciso a essere sinceramente se stesso, a non far finta di possedere conoscenze e abitudini che gli erano estranee. Martin guardò Ruth in cerca di rassicurazione, come un passeggero preso dal panico all'idea di un possibile naufragio si sforza di scoprire dove si trovino i salvagenti. Bene, ecco che cosa ne aveva ottenuto: l'amore e Ruth. Tutto il resto non era riuscito a passare l'esame dei libri, ma Ruth e l'amore ce l'avevano fatta. Martin aveva trovato per entrambi una sanzione biologica. L'amore era la più alta espressione della vita. La natura si era impegnata nel progettare Martin così come si era impegnata nel progettare tutti gli uomini normali perché potesse amare. La natura aveva speso 10.000 secoli, anzi centinaia di migliaia e un milione di secoli su quel compito, e Martin era il meglio che potesse fare. Aveva reso l'amore l'elemento predominante in lui, consentendogli, con il dono dell'immaginazione, di accrescerne i poteri del 10.000%. E poi la natura stessa aveva spedito Martin nel mondo effimero da lei creato perché si emozionasse, si lasciasse andare e si accoppiasse. La mano di Martin cercò quella di Ruth di fianco a lui, nascosta dal tavolo, e una calda pressione fu data e ricevuta. Lei lo guardò per un breve istante con gli occhi pieni di luce e tenerezza, come lo erano quelli di lui, e Martin si sentì pervadere da un brivido e non comprese che ciò che era di luminoso e tenero negli occhi di lei era dovuto a ciò che Ruth aveva visto nei suoi. Sull'altro lato del tavolo, al posto d'onore alla destra del signor Morse, sedeva il giudice Blount, un alto funzionario del tribunale locale. Martin lo aveva già incontrato diverse volte, ma non era mai riuscito a farselo piacere. Il giudice e il padre di Ruth stavano discutendo di politiche sindacali, della situazione cittadina e del socialismo, e su quest'ultimo argomento il signor Morse cercava in ogni modo di provocare Martin. Alla fine il giudice Blount lanciò attraverso il tavolo uno sguardo benigno e carico di paterna commiserazione. Martin sorrise a se stesso. tollererà quel suo socialismo, mio giovane amico, disse il giudice dolcemente. Il tempo è la cura migliore per simili eccessi di gioventù. Poi si rivolse al signor Morse. Non credo che in questi casi sia utile discutere. Rende il paziente ostinato. È vero, l'altro assentì con gravità, ma è bene avvertire di tanto in tanto il paziente delle sue condizioni. Martin rise di gusto, anche se gli costò fatica. La giornata era stata troppo lunga, lo sforzo troppo intenso, e ora era preda di una dolorosa stanchezza. Indubbiamente siete entrambi dei medici eccellenti, disse Martin, ma se vi importa qualcosa dell'opinione del paziente, lasciate che vi dica che siete dei diagnosti mediocri. Infatti, entrambi soffrite proprio della malattia che credete io abbia, quando, per ciò che mi riguarda, ne sono immune. La filosofia socialista che ribolle cotta a metà nelle vostre vene non mi ha neppure sfiorato. Furbo, furbo, mormorò il giudice. Rovesciare le posizioni è una mossa eccellente in una controversia. L'avete detto voi, eh? Gli occhi di Martin mandavano lampi, ma riuscì a mantenere il controllo. Vede, giudice, ho ascoltato i suoi discorsi durante la campagna elettorale. Grazie a qualche processo enidico. Enidico, a proposito, è uno dei miei termini favoriti che nessuno capisce. Grazie a qualche processo enidico, dicevo, voi vi convincete di credere nel sistema competitivo e nella sopravvivenza del più forte. Ma nello stesso tempo approvate ogni tipo di misura o legge capace di privare della sua forza il forte. Oh, mio giovane amico, si ricordi? Ho ascoltato i suoi discorsi elettorali, lo ammonì Martin. È tutto registrato. La sua posizione sulle norme per il commercio federale, quelle per le ferrovie e la Standard Oil, le norme per la conservazione delle foreste, mille e una misura restrittiva che non sono altro che socialismo. Sta cercando di dirmi che non crede sia necessario arginare quei poteri spropositati? Oh no, non è questo il punto, disse Martin. Sto cercando di dirle che lei è un diagnosta mediocre. Sto cercando di dirle che io non sono vittima del microbo del socialismo. Sto cercando di dirle che siete voi le vittime dell'aggressione svirilizzante di questo microbo. Per ciò che mi riguarda, io sono un ostinato avversario del socialismo, così come sono un ostinato avversario della vostra democrazia bastarda, che non è altro che pseudo-socialismo, rivestito da una maschera di parole prive di senso, come qualsiasi dizionario potrebbe dimostrarvi. Io sono un reazionario, e lo sono a un punto tale che la mia posizione è incomprensibile per voi, perché vivete in un'organizzazione sociale che non è altro che una menzogna velata, e i vostri occhi sono troppo miopi per perforare quel velo. Voi credete di credere che debba sopravvivere il più forte, che debba governare il più forte. Io invece lo credo, ed è questa la differenza. Quando ero solo un pochino più giovane, qualche mese fa, anche io ero come voi. Vede, giudice, le sue idee, quelle della sua classe, mi avevano convinto. Ma nel migliore dei casi, mercanti e bottegai sono dei governanti codardi. Ogni giorno della loro vita grufolano e ruminano nel trogolo del far soldi. E così, se non vi spiace, ho ripiegato sull'aristocrazia. Sono il solo individualista in questa stanza. Io non guardo mai verso lo Stato. Guardo soltanto verso l'uomo forte, l'uomo a cavallo, che salverà lo Stato dalla sua stessa marcia futilità. Nietzsche aveva ragione. Non perderò tempo a dirvi chi era Nietzsche, però aveva ragione. Il mondo appartiene all'uomo forte. All'uomo forte che sia, nello stesso tempo, nobile e che non sguazzi nel trogolo da porci del commercio e della borsa. Il mondo appartiene ai veri nobili, alle grandi bestie bionde, a coloro che non accettano compromessi, a coloro che sanno affermarsi. E quegli uomini vi mangeranno in un sol boccone, voi tutti socialisti che temete il socialismo e credete di essere degli individualisti. La vostra morale dell'obbedienza e dell'umiltà è una morale da schiavi e non potrà salvarvi. Oh, certo, tutto questo fa molto antica Grecia, lo so. e non vi infastidirò più a lungo con le mie riflessioni, ma ricordate soltanto una cosa. Non c'è che una mezza dozzina di individualisti in tutta Oakland, e Martin Eden è uno di loro. Con ciò, Martin voleva dire che la discussione era conclusa e si rivolse verso Ruth. «Stasera sono proprio a pezzi», le disse a voce bassa. «Ho solo bisogno di tenerezze, non certo di affrontare discussioni». Martin ignorò il signor Morse che stava dicendo «Non sono convinto, tutti i socialisti sono gesuiti, è questo il modo per riconoscerli». «Eppure riusciremo a fare di lei un buon repubblicano», aggiunse il giudice Blount. «L'uomo a cavallo arriverà ben prima di allora», rispose Martin di buon umore, e riprese a parlare con Ruth. Ma il signor Morse non era contento. Non amava la pigrizia e l'avversione di Martin per un lavoro sobrio e legittimo. Non aveva alcun rispetto per le idee di quel suo futuro genero, del quale, tra l'altro, non comprendeva affatto la natura. Così il signor Morse portò la conversazione su Herbert Spencer e il giudice Blount lo assecondò abilmente. Martin, che aveva subito drizzato le orecchie sentendo il nome del filosofo, ascoltò il giudice pronunciare una grave e compiaciuta giaculatoria contro Spencer. Di tanto in tanto il signor Morse lanciava un'occhiata a Martin come per dire «Eccoti servito, ragazzo mio!» «Cornacchie gracchianti!» mormorò Martin senza farsi sentire e continuò a parlare con Ruth e Arthur. Ma la lunga giornata e l'incontro la sera precedente con la vera Fitch si facevano sentire. Per di più, ciò che Martin aveva letto in tram e che non gli era piaciuto affatto, gli bruciava ancora nella testa. «Cosa c'è?» gli chiese Ruth all'improvviso, allarmata dallo sforzo visibile che Martin faceva per controllarsi. In quel momento il giudice Blount stava dicendo «Non c'è Dio tranne l'inconoscibile, e Herbert Spencer è il suo profeta». Martin si girò immediatamente verso di lui. «Un giudizio di ben poco valore», ribatté con tranquillità. Lo sentì per la prima volta nel City Hall Park, dalle labbra di un operaio che avrebbe fatto meglio a stare zitto. Da allora l'ho sentito ripetere molte volte, e ogni volta quel ritornello stantio mi fa venire la nausea. Lei dovrebbe vergognarsi di se stesso. Sentir pronunciare da lei il nome di quel grande e nobile uomo è come trovare una goccia di rugiada in una fogna. Lei è una persona disgustosa. Fu come un fulmine. Mentre regnava il silenzio, il giudice Blount guardò Martin di traverso con l'aspetto di qualcuno a cui stia per venire un colpo apoplettico. Il signor Morse era segretamente compiaciuto, vedeva che sua figlia era turbata ed era esattamente ciò che voleva, fare emergere la connaturata volgarità di quell'uomo per il quale provava solo antipatia. Ruth, implorante, cercò sotto il tavolo la mano di Martin, ma Martin sentiva il sangue ribollirgli, era infiammato dalla finzione e dalla frode intellettuale messa in atto da coloro che occupavano i posti più alti. Un giudice del tribunale. Solo alcuni anni prima Martin aveva guardato dal fango verso quelle gloriose creature, giudicandole delle divinità. Il giudice Blount si riprese e cercò di continuare, rivolgendosi a Martin con una gentilezza affettata che, come quest'ultimo ben comprese, era dovuta solo al fatto che fossero presenti delle signore. Beh, anche questo comportamento aumentò la rabbia di Martin. Non c'era onestà nel mondo? «Lei non può discutere di Spencer con me», gridò Martin. «Non conosce Spencer più di quanto lo conoscano i contadini inglesi». «Ma non è colpa sua, glielo garantisco. È solo un segno della vergognosa ignoranza dei nostri tempi. Ne ho incontrato un altro esempio questa sera. Mentre venivo qui, ho letto un saggio di Saleeby su Spencer. Dovrebbe leggerlo. È accessibile a tutti. Lo si può comprare in qualsiasi libreria o prendere in prestito in biblioteca. Ecco, si vergognerà per la povertà degli insulti e dei luoghi comuni che lei ha riversato su quel nobile uomo di fronte a quelli collezionati da Saleeby sul grande Spencer. È un campionato di affermazioni così colorite che la farà vergognare per le sue. Non credo che lei abbia letto 10 pagine di Spencer. Alcuni critici probabilmente più intelligenti di lei, ma che probabilmente hanno letto ancor meno pagine di Spencer di quello che lei ha fatto, hanno in pubblico sfidato i discepoli di quel filosofo a trovare una sola, unica idea in tutti i suoi scritti, una sola in tutti gli scritti di Herbert Spencer, dell'uomo che ha impresso l'impronta del suo genio nell'intero campo della ricerca scientifica e del pensiero moderno. Il padre della psicologia, l'uomo che ha rivoluzionato la pedagogia al punto che oggi il figlio di un contadino francese impara a leggere, scrivere e contare secondo i principi stabiliti da Spencer. E quei miserabili moscerini attaccano la memoria di Spencer quando devono pane con panatico proprio alle applicazioni tecnologiche delle idee di quel filosofo. Vabbè, quel poco che c'è di valore nei loro cervelli è per lo più dovuto a Spencer. Se lui non fosse mai esistito, nella loro cultura da pappagalli non vi sarebbe una sola traccia di verità. Ciò nonostante, un uomo come Fairbanks, il rettore dell'Università di Oxford, un uomo che occupa un posto ancora più in alto di lei, giudice Blount, ha affermato che Spencer verrà ripudiato dalla posterità perché è un poeta e sognatore e non un pensatore, bla bla bla e ancora bla bla bla. Quell'intera genia non sa far altro. Uno di loro ha detto che Primi principi non è privo di un certo valore letterario e altri della stessa razza hanno definito Spencer un industrioso sgobbone piuttosto che un pensatore originale, bla bla e bla bla. Martin smise di colpo in un silenzio di morte. Tutti i componenti della famiglia di Ruth consideravano il giudice Blount un uomo di potere e di successo ed erano orripilati dall'esplosione di Martin. La cena continuò in un'atmosfera da funerale. Il giudice e il signor Morse si limitavano a parlare l'un l'altro, mentre il resto della conversazione procedeva in modo stentato. Poi, dopo cena, quando Ruth e Martin si ritrovarono da soli, vi fu una scenata. «Sei insopportabile!» lei gli disse piangendo. Ma Martin, mentre la rabbia covava ancora dentro di lui, continuava a mormorare, quelle bestie, e quando Ruth lo accusò di aver insultato il giudice, lui contrattaccò, perché ho detto la verità, disse, non mi interessa se era la verità o no, insistette Ruth, il decoro ha le sue leggi, e tu non hai il diritto di insultare le persone, e allora il giudice Blount, dov'è che si è procurato il diritto di attaccare la verità? Domandò Martin. Indubbiamente, attaccare la verità è una trasgressione più grave che insultare un pigmeo come quel giudice che ha fatto ben di peggio. Ha insultato il nome di un grande, nobile uomo che è morto. Ah, bestie, quelle sono bestie! La rabbia di Martin, alimentata da più di un motivo, si infiammò di nuovo e Ruth ne fu terrorizzata. Non lo aveva mai visto così arrabbiato. Tutto le appariva oscuro e irragionevole ed era al di là della sua comprensione. Eppure, proprio all'interno del suo stesso terrore, scorreva quella vena di fascinazione che l'aveva spinta e che ancora la spingeva verso Martin, che la costringeva ad appoggiarsi a lui e che, in un folle, estremo momento, le aveva fatto appoggiare le sue mani sul collo di quell'uomo. Ruth era ferita e oltraggiata da ciò che era accaduto, eppure giaceva fremente tra le braccia di Martin, mentre lui continuava a mormorare, «Quelle bestie, quelle sono bestie, bestie, bestie!» Ed era ancora lì, quando lo sentì dire, «Non ti infastidirò più, cara. Non piaccio ai tuoi genitori ed è sbagliato che cerchi di imporre loro la mia discutibile presenza. Inoltre ciò vale anche per me». Mi fanno venire la nausea e pensare che io, nella mia innocenza, credevo che coloro che occupano i posti più alti, che vivono in case eleganti, che sono istruite e possiedono conti in banca, fossero persone di valore. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli.